Ora. 1, 2, 3, prova. Non ho capito. Rocco. Aspetta che ti mando i cosi. Vediamolo. Trasliamo assieme, cazzo. Così i vaccini almeno. Ti faccio fare. Ti metto il coso per il vaccino. Ti metto in coda. Senti? Ecco. Numero 105 uscito? No, è ancora dentro. Vabbè, te ne mando un altro, ti mando il numero 106. Va benissimo. Quindi come la mettiamo? Chi è il più scemo di me al baracchino? Io o tu? Vai, fatti il vaccino veloce, vai, che è meglio. A vizzeddu. Vai, 2-1 fuori. Lo senti. Ma che ce l'hai, Antonio? Ehi, dimmi. Ecco chi ce l'hai. Da solo sei parlato. No, uno mi ha mandato, come si dice, in pratica la registrazione, mi ha mandato l'audio di una frequenza, hai capito? E mi ha mandato l'altro. Solo che io ci ho parlato con quelli, lui no, e gli ho dato l'appuntamento per adesso, il numero 106, quindi deve andare a farsi la vaccinazione. Ah, ho capito. Intanto ha traslato, non so chi cavolo sia, che c'è il bip, hai capito? Il bip della... adesso non mi ricordo che marca è, non è Intec, è l'altro era. Comunque sia, almeno io ho avuto la faccia di culo, cazzo, di fargli la prenotazione per il vaccino, in diretta. Ah, in diretta così, cazzo. E vabbè, ma fatto il vaccino. Ah, penso che se l'abbia fatto il vaccino, che lo faccia il vaccino, cosa ne so. Io ho detto che stava entrando nel 1106, quindi è meglio che ci vada a farsi il vaccino. Ho capito. Era vera. Com'è questa radio, Antonio? Di lusso, auglia. Perfetta. Uioia. Ma comunque è un divertimento, lo sai, ascoltare quando fanno i vaccini, che uno entra, l'altro esce col numero, quindi a un certo punto io posso anche fare la prenotazione, tanto per dire, se tu c'è il numero 104, io ti metto il numero 104 prima, entri prima, cazzo, da qua. Non sapevo che si poteva fare così, io già l'ho già fatto, per cui sono tranquillo adesso. Io lo so, una volta dicevano, cioè, dicevano nome e cognome, adesso non c'è bisogno, solamente il numero e basta, quindi figurati. Ma mi diverte, cazzo, lo sai perché? L'altra volta mi sono divertito, il locale che ha aperto qua di fronte, stavano facendo panini, no? Ma il genere, gli ho detto un capriccio al tavolo numero 109. Cazzo, è quello è diventato scemo, ma io ho trovato 109 qua, non esiste. È facile, è così. Ha giovato un bidone, l'ha giovato. Ma bidone, mica, dovevi sentire. Sono fatto una lezione per una settimana, cioè una settimana. Poi è bello che sono andato dopo un quarto d'ora, lì da loro, hai capito? a farmi una passeggiata, non sapevo cosa dovevo fare ai giocatori e sapere come diavolo il locale. E so, mi sono recato lì, cazzo, mi ha fatto pagare una, cos'è, una spina, una 0,20, 4,50 me l'ha fatta pagare. Addirittura 4,50, babbo. Sì, 4,50 me l'ha fatta pagare. Adesso non vedo come è andato. Oh, sono là, gli ho detto che ci torno più da te, non sarei matto. Allora bisogna sentare, scusa, c'è una telefonata. D'accordo, ok. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Brava. Chi è avanti? Ho capito. Sì, buonasera, tanto come se vuoi sbaglio. Capo, sto facendo male. Io sto facendo bene, sei tu che sto facendo male. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Ecco, adesso mi senti bene, ho di potenza un bel alta, adesso mi senti bene. Infatti appunto, tu sei quello riproduttore, sei giusto, quello che mi ha dato il Saturn, ecco. Hai visto che ti ho riconosciuto subito. Il Saturn, ecco, la verità, l'ho usato io quasi 6 mesi, poi ho preso, l'ho messo a posto e l'avevo venduto 150 euro. Diamo, sai, ti ricordi quei difetti che c'aveva? Li avevo sistemati. E poi dopodiché l'ho venduto a quello lì, quello lì ha preso, l'ha venduto su eBay, mi sembra 200. Sì, per il momento sì. Come essere così disperato? Ah beh, quello sì. Ne avrei riparato almeno una quindicina di questa tornecola, ce ne avrei avuti. Io non me lo faccio niente, ho detto, avrei riparati, ho detto, non ti avrei detto, ti avrei voluti, e cosa cazzo me ne vuoi, non me ne faccio niente. L'ho usato, è bello, è quello che è, eccetera, eccetera, è bello perché cazzo c'è frequenzimetro, eccetera, eccetera. Però c'è le sue bellezze, ma c'è anche i suoi difetti. Quando stai un po' di tempo che non lo usi, comincia a frequenzimetro ad andare a fanculo, e quindi devi cazzo sistemarlo, eccetera, eccetera, capito? Sono parecchi vecchi, già lo sai anche tu. È come usare un FT7B, quello ti posso dire, un 140, che sono apparati che sono antichi, cosa del genere, a un certo punto sempre qualche problema ti danno se non lo usi. Vedi, che c'ho ragione, cazzo. Cerca di sistemarti, perché se Santiago 7 e 8, la radio adesso non ce l'hai per niente. No, oh, vabbè, non stai riuscendo adesso, No, no, la radio è bassa, ma veramente è bassa. Nulla, ti ascolto un bel basso. Prova a aggiustare qualcosa, col potenziometro delle... come si dice? Del coso, dell'audio. E fatto questo, fa così, quando fai un po' di tempo che non lo usi. Questi apparecchi qua non fanno quel problema. Capito? Basta che lo pulisci un pochettino, lo apri, e hai appena appena riceve e sei a posto. Sono dei treni come apparecchi, la verità, perché durano parecchi anni, però a un certo punto non sei da un bel po' che lo usi, si forma cosa ne so, ti vengono i cussi, ti vengono, come è venuto al mio, che è stato, stavo uscendo di testa, stavo un mese cazzo, che non riuscivo a capire un fanculo, finché non ho capito cazzo, che cosa cazzo era, in pratica non funzionava la ventola e non usciva più in trasmissione. Mi si è abbassata l'audio a zero, non uscivo più e dovevo dargli dei colpi al microfono, eccetera, eccetera, capito? La ventola che non funzionava. Quindi bisogna sempre aprirlo e usarlo, cioè aprirlo, usarlo da parecchio, poi aprirlo sempre, almeno una volta al mese, per poter pulire la ventola. Ma purtroppo è così, di usare l'antitrasmissione, capito? Anche se non c'è nessuno, parlerà solo 5 minuti, quello che ho, se ti metti a mettere musica. Ah beh, quello è vero, visto, io sto facendo bene, ce l'ho già 4-5 anni questo apparecchio qua, e adesso funziona benissimo, è perfetto, non c'è niente, riceve tutte le frequenze, quello che è perfetto. Eh beh, sono dei treni, cazzo, questi apparecchi qua, capito? Quindi a un certo punto, vabbè, anche il saturneco va bene, ma il problema è che il saturneco a volte incomincia a dare i numeri dopo un po' di anni e roba del genere, capito? O c'è problemi di trimmer che non esce di radio, di potenza, eccetera, eccetera, capito? Quindi deve arrivare a intuito. E beh, se tu vuoi, io l'ho visto modificato, ma è veramente bello. Gli ho chiesto a quell'ingegnere che l'ha modificato, ha detto che non lo vendeva, cioè, mi ha messo poca roba, cazzo. Gli ha cambiato la mascherina davanti, gli ha messo il strumentatore nuovo, eccetera, ma tu dovresti vedere quell'apparecchio lì, come l'ha fatto, cazzo. Minimo valeva, cazzo, più del Kenwood, almeno 1200 euro valeva quell'apparecchio lì. Faceva se non mi ricordo male, più di 25, da 20 passava, mi sembra, 32 o 40, una cosa del genere, ma era una cosa allucinante, era veramente bello, cazzo, bello, bello, veramente, 100 watt d'uscita, Mario, non chiedo di Mario. No, GBP non ha, io ho messo solamente io lo GBP a 4 ottobre della REM, il 680 l'avevo fatto nel 680 perché quella modifica lì. Poi vabbè, l'ho dovuto vendere perché abitavo al centro storico, mi è arrivata una battosta di 170 euro di luce, quindi a un certo punto ho dovuto fare una scelta, ho pagato la mia luce se volevo vendermi il C80, poi quello che l'ha comprato, in pratica l'ha dato l'allevatore dice che cazzo io non cavo piede, eccetera, eccetera, hai preso un bidone, eccetera, non dovevi prendere. Ha fatto pochi casini, cazzo, hai capito? Stavo per dire, ascolta, ritornami i 80 e te la prendi in cura, ti dove sono indietro, te la prendi in cura a un certo punto, la verità, perché questo funzionava veramente bene con l'apparecchio, era un demonio, era. Lo usavo in laboratorio, quello io, quando lavoravo da Prospero, che è morto, la Buonanima. E mi facevo tutti i telefonini cordless dai 34 fino ai 49 MHz, li sistemavo uno per uno, non c'era bisogno di altra cosa, usavo quella pavicolina, era perfetto. D'accordo, ok. Il vaccino qualcuno se lo vuole, lo chiamiamo e gli facciamo fare subito il vaccino, immediato, senza aver bisogno di cosa. Aiuta, rispondi, cazzo. No, niente. Evidentemente è occupato. E stavo facendo il vaccino al Rizzello, hai capito? E quindi fanno le fino a 180 persone, a quanto ho sentito l'altro giorno. Quindi d'accordo, ciao, alla prossima, ci sentiamo, fammi bene. Io ciao ciao. Chi è avanti? E beh, Pompucu! Oh beh, cazzo! Ma cosa sei venuto? Non ti sei più sentito, boh! Senti che è entrato Daniele adesso, Pompu! Ti fa un po' di prova, gatina! Pompu mi alza alle 3:30 per andare al lavoro, Quindi mattina alle 3:30 dal lunedì al sabato! Vabbè, non c'è problema per quello, cazzo! Certo. Basta lavorare, guarda, mi sei voluto a posto tuo, guarda, questo è poco ma sicuro, almeno passo l'ora, non devo farmelo in casa, a rompermi le palle e cose del genere, capito? Tu già lo sai che quando giri il capo, i locali, cazzo, tu mi sacco le ragazze, capito, gentili, nuove, magari fai amicizia, eccetera, eccetera, e sei a posto. Ecco, quella roba Fabiana, quella è libera, mi. Che Fabiana? Quella ragazza che c'è con i capelli lunghi, fa un fianco, magra. E si è passato tutta la mattina quando c'è lui, se ricordi, quella si chiama Fabiana, quella è libera, non c'ha fidanzato, non c'ha niente. Ma a Cuiti? Sì, a Cuiti, bravo. Quella sorella è quella robustella, quella lì sono sorelle, so. Ciao, sì, c'è la robustella. E poi c'è l'altra c'è un dato di fatti suoi. C'era in via, come si dice, di fronte al Banco di Sardegna, Tiziana. Via, qui c'è Daniele, avanti Daniele. Comunque la radio è molto più forte, segnale, ma cioè è sempre lo stesso, ma la radio arriva molto molto più forte, tu lì dovresti andare con più watt, avanti Pompu, adesso lo senti, ma penso che lo senta Daniele, beh, cazzo ti dice davanti. Anche lì ho sentito dal primo giorno molto forte la verità, non so negli altri che era Itili, figurati tu, pensavo che era in via d'Italia, roba del genere. Metto di no, quindi metto che Itili e a voglia, vabbè. Cosa Daniele, scusa? Beh, è normale che la ricezione ti aumenta. Metti un cavo scarso e la ricezione peggiora, capito? Penso che sia così. Comunque la radio è molto più forte, dai. Poi in FM non se ne parla, arrivi benissimo. Come una telefonata. C'è da dire sempre che è una zona un po' così, Daniele, io lo stesso, sai dove abito, la mia zona è un po' così lo stesso, però ci sentiamo, dai, riusciamo a parlarci, e non è poco. Adesso non lo so, aspetta che un attimino, che abbasso, vediamo un po' che aumento con l'aiutino, dai. Così poi un attimino mi allontano e mi vado a farmi la barba. Aspetta un attimo. Lo vedi che sei? Guarda un po' Daniele, adesso ho agganciato, guarda un po'. Non so questa radio quante cazzi di watt da, boh. Quanto posso dargli d'ingresso alla 747 Pompu? 20 watt no, troppi so. Ma sei matto, sì, no. Se arrivi massimo 6, 7, 10, non di più. Ma 5 saranno così Daniele. Ora. 5 watt vi sto dando, dai. Non so quanti watt da 747, non lo so. Tu Pompu lo sai quanti watt da? 50, 40, 30, quanti watt da? Ma quanto mi ricordo io, 747 va da 100 watt. In pratica è meglio, più o meno 16 watt come si chiama? Piccolo Delta G. Sono uguali. Ma oggi il discorso diverso, dava 40 watt, a meno che non mi facevi la modifica, eccetera, eccetera, nella battanta, hai capito? Tutto lì. Di BC50 sto parlando io, la verità, ZG. Ehi, ehi, allora, vabbè, mi aspetto 10 minuti, dai. Mi faccio questa barba. Arrivo subito, riprendi Dani. Via, va bene, dai. Arrivo subito, eh. Qui ti sei stabilizzato lì, ai tiri e sei tranquillo. Sì. Ci sono altri tre cibi che parlano lì a Itri. Uno già lo sai che fare il lavoro di tecnico, vabbè, la cappellina, comunque sia, già mi hai capito. Entrava un po' di anni fa, almeno 10-15 anni fa, che è sparito, non l'ho più sentito. Poi c'era un'altra ragazza, poi c'erano due ragazze che parlavano di Haiti, ma lei si sarà sposata e questo non lo so. Patrick! Che sta succedendo qua, Daniele? Secondo te dove è Haiti? Ah, Vicente, Daniele! Ah, già sta arrivando anche bene tu, dai. Gian Maria solo. Poi io non ce l'ho quello lì, sta con tre di quello lì. Evidentemente dice tu c'è più l'altro, chiaro che ci sarà più QRM per quello, dai. Ha detto che lui quel remo non aveva, evidentemente c'è quel remo tu, perché sei più alto, beh logico, capito, di alto, è più alto di me, figurati tu. E poi vedevo un po' la zona, dove ci trovi la zona proprio, dai. E la zona dove sei proprio, in quale parte sei? E dalla parte, da che parte sei? Non pensi che sia la parte dell'ospedale? Ah, aspetta, convento, così è. Aspetta, nel convento, sì, cioè in quella zona. Al corso, non penso sia giù al corso, eh. E allora, comunque sei arrivato abbastanza bene, per sei quella zona, perché è in basso, eh. Sei in basso, però arrivi benissimo. Magari poi arriva più forte perché è più in alto anche, così che io sono in basso. Io sono all'alto d'occhio, così che puoi immaginare, sono in basso io, mentre poi è più in alto e arriva più forte anche. Non ti credo. Oh, sai che giro a giro arrivo meglio in PMR che 27 io. Che adesso lui il PMR in questo momento non lo sta usando, però sono sicuro che se aggancia l'antenna PMR arriva a casa una bomba arriva. E che lì all'aria ce l'ho aperto, capito? Anche quello è infatti. Oh, meno male ce n'è uno ai CIE. Cazzo, da tanto che non ne sentivo qualcuno da Itri. Prima era pieno a Itri di CB, adesso ci senti solo Daniele. E sono spariti, dai. E da tanti anni fa c'era anche un medico che parlava, non mi ricordo come si chiamava. Ma ce n'erano parecchi, ce n'erano, eh. E adesso invece sei solo tu, eh. Vabbè, tutti morti sono, fatto lì. E ho sentito che l'hanno chiamato al telefono, non ti preoccupare. Ok. Ha staccato l'antenna esterna alla VHF. Vediamo un po'. Sembra che ho finito di il corso. Ok, mi dovevi? Ah, già ci sono, già. Quando te lo stai la casa arrivo sulla scala lì a risiedere. Hai sentito? Già l'ho sentito. E quali sono? E che frequenza è quella? 54460 56. Ecco, è PMR. Ehi, è PMR, sei bravo. Certo. Ancora c'è, già li stanno usando ancora io. Oh, la voglia, li stanno usando. Se ti trovi faccio bombardiere. Quando, poco fa ho fatto la prenotazione. Ero con un mio, figurati tu. Adesso c'è l'antenna esterna, sto usando la X300, quindi cambia totalmente. Cambia. Sento tutto. Oh sì, come arrivano vengo. Sento tutto, sento. Aspetta che me lo segna per un po'. L'ho acceso, Antonio. 4-4. Ripetemela 1-1. 4-4-6-0-56. Però pronto, aspetta, te lo dico io perché cazzo c'è la. Sai che c'è la questione delle. Aspetta, te lo dico subito. Perché io dove i piccoli non li vedo più. Ormai sono. Ho 60 anni. E quindi a un certo punto cazzo mi vado per le balle cazzo qualcosa. Con la 20 di ingrandimento. punto 25 aspetta, Purtroppo ormai sono diventato anziano, cazzo. Non voglio più da fanculo, cazzo. A 60 anni, cazzo. Mi sono rovinato la vista facendo questo cazzo di lavoro in merda, cazzo. Se fosse stato cazzo come ti posso dire, vabbè, vuole dire, a quest'ora mi sarei svegliato cazzo le gambe, le braccia, il resto, quindi è meglio la vista. Aspetta che te lo ripeto, se è quella lì, Antonè. 4-4-6-0-25, così è. No, 4-4-6-0-5-6.25. E non ci riesco, devo provare, aspetta, me lo segno, e riprovo, va, un attimino, Ehi, prova, quando sei, prendo e ti chiamo. Ah, Antonio, però dimmela 1-1, non in fretta però, no, che lo scrive bene questa penna. Piano piano me lo dice, 1-1. E beh, caduto sei, Antonio. Daniel, ci sei? E beh, ciucucciù, parla di sì. Parla allora Gabriele, sei, Antonio. Ah, corra, ci sentiamo, vai. Buon proseguimento. Oh, oh. Cazzo adesso.